signor Amato. Attenzione, canale 10, c'è nessuno? Allora, canale 10, ora canale 10. Ora 10. Ora, canale 10, canale 10, canale 10. Ciao, Cla, dammi il controllo. Un po' brutta la radio. La radio è brutta, il segnale? Cosa qua? Il segnale come? Guarda un po'. Prova a farmi vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, radio 5 abbondante. Cioè la radio è bassa, quella 5. La radio è 3. Ascolta, adesso ho messo il processore, migliorato, guarda un po'. Alla grande. Ok, ho sistemato l'antenna, già funziona, manco male. Ok, ti ringrazio, a tra poco vado a bere la birra adesso, con calma. Ma sistemato l'antenna, quale antenna? Ma non sei a casa tua? No, non sono a casa mia, sono a casa di un amico. E vabbè, già si sente che stai usando un capo. Ah, si nota, si nota. Sì, dalla portante, però la radio è bassa sempre. Molto meglio, ma non è spinta. Ma sia Sassari? Aspetta, microfono normale questo, eh. Aspetta, lo metto sulla C. Guarda un pochettino, va meglio? Sì. E ho capito che sì, la M, sì, M. Dovinato. Salutamelo, un abbraccio grande. Un carissimo amico serio, salutamelo. Sì, va bene, lascialo così. Ti ringrazio, tu dove cambiato, amico mio. Già ci vediamo con calma. Ciao, grazie, controllo, comunque. Ci sentiamo più tardi, ciao, grazie, Claudio. Ciao, ma rifigurati, un dovere. È doveroso dire le cose quando sono giuste. Ciao, un abbraccio grande, a presto. Poi già riprenderò, ora. Speriamo una cosa, poi sto salendo a stanza. Che abbiamo sistemato l'antenna. Perfetto, ottimo segnale, ottima radio adesso. 9.10 abbondante, 9.15 dai, buono segnale. Ok, dai, un saluto a tutte e due, a frappè, ciao. Ehi, cazzo, a frappè. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Marie, ciao. A te, Tornato. Giulio. Cercando Ronaldo, c'è? Ronaldo non lo so, sta a giocare. No, non gioca, è a riposo. Ah, Giulio stavo cercando, ma non c'è. Ah, vabbè, allora devo buttare. Sì, sento. No, lasciateci la partita all'Inter. Quindi sicuramente non entra Giulio stasera. Ma lasciate meno 5. Sta parlando al veterinario. E che successo? Io quando lo stai tra l'una e mezza con la bugerola, con il pistaggio, è scappato il piccolo, la questo qua, quando si è affettato al gioco, non ci stiamo attaccando, perché il pistaggio andava a difendersi facendo la bugerola, ma non doveva difendersi. Cazzo, non ho male di questa bella ragazza che c'è il piccolo, era saputo come aprire la bocca, se no, ce l'aveva già presa al collo, l'ha preso prima la cuscia e poi andava al collo. Quello ci andava a girarsi ma non ce la faceva a musicare perché abbiamo un nuova. E poi il traduttore cazzo da dietro sempre prende la cuscia. E gli hanno messo in punto, nel tutto cazzo basato, gli hanno messo in punto nell'orecchio, nella cuscia. Io. Che sembra da zona, che è tutto pieno di bitibur in Kiwi. Tutto pieno di bitibur. Sono cani, già, Mugiarola, sono cani troppo feroci, c'è niente da fare, feroci, cattivi, sono dei cani, è meglio evitarli. Come mai tu ti sei trovato in mezzo a questo pitbull? No, non era mezzo a questo, io ero con questa ragazza che stavo parlando, c'era un cagnolino piccolo, però questa ragazza c'è un cagnolino piccolo, continua a scendere con lo piccolo, e poi un po' di orario, quando non c'è niente. Stavamo parlando, ho detto perché mi hai messo la bugia di loro? Perché a volte gira male con le persone, così, quindi è meglio curare, prevenire che curare. Ma ho detto voci che però questo cane mi sta mandando a conto. E ma no, era arrivato, ha chiamato, come si chiamava? Lampo, una cosa del genere. E' fatto stata perché non ce l'ha fatta, perché gli ha destato la coscia. E poi l'ha volata, poi l'ha preso al collo. Al collo e all'orecchio. Si mai l'ha sciolto questo pitbull? Denuncialo. È un cane, quel pitbull deve uscire con la muciarola, non il tuo. Lui deve uscire con la muciarola. Non ci aveva né cristallo né muciarola, ci aveva solo la bambolina qua. Il cristallo ce l'aveva in mano. Ma di chi? Ah, ci ha tornato, non mi capisco. Ci ha tornato a casa sua, gli ho presentato il conto. Vedete, questo qui è il conto, 100 euro. Più 25 euro di cosa, di antibiotico che devo comprare. Oh. La rata. Oh. Sono medicato anche io, gli ho messo pettadine, eccetera, eccetera. Infatti per tirare una cosa, ho fatto bene a me, per pettadine. Sta tanto rasato, la cuccia, la ringuata. C'è un po' di malumore. Molti punti li ha messo? 3 punti nell'orecchio. E io. Già non è nulla. Denuncialo, Gianni. Denuncialo. Vai alla, alla cosa, alla zuffera e lo denunci, capito? O al comando dei vigili urbani, lo denunci, cioè il testimone lo denunci perché quello deve rimanere con la musarola, non il tuo. Il tuo non è un cane aggressivo, gliel'hai messa tu per correttezza nei confronti degli altri, però non c'è scritto da nessuna parte. Quello invece c'è scritto che deve girare a guinzaglio con la musarola, quindi prende colpi forte, però questo è un tuo coso, una tua decisione, se lo vuoi fare o non lo vuoi fare. Chi è che voleva entrare? Buonasera a tutti, ho acceso in questo momento, sto andando e venendo da casa, dai. No, già, ti volevo chiedere, ma chi era il cane di quel bellissimo mezzo randaggio che mi avevi detto da quelle parti? Esatto, cosa fate bruciare? Non c'è una mamma. Però è gente che continua, se certi non hanno nulla a perdere, mi. Alla fine se non lo si denuncia continuerà a fare come vuole, niente guinzaglio, niente museruola, però da, non c'è, d'altro canto mi hai spiegato che elemento è e quindi c'è quel rischio. E purtroppo Claudio, vabbè, detto ciò io mi sto cambiando, devo di nuovo uscire, ciao a tutti, dai. Poi c'è giornata piena. Che stai uscendo, no, ma magari dal medico devo andare perché l'altro giorno ho saltato, non avevo voglia, non me la sentivo, devo andare oggi e poi in farmacia a piedi. Però va bene, però non funziona così, Marco, capito? Non funziona assolutamente così, a me non me ne ha fatti un da carega, non è, e devo bruciare la macchina, io devo bruciare il gas, però il cane non tiene il guinzaglio, non funziona così. Dove siamo? Mangiano un pesce, perché lui è e deve dare fastidio agli altri. Vabbè, auguro a Gianni, se è arrivato a Mario non penso l'abbia fatto un guapo, a chi aveva bucato giù il buco. Va bene, ciao, buona serata, vai. Che bucato, è dato di colore, ma non ora ho fatto quella ragazza che gli ha fatto la bocca, e invece al piccolo si è attacciato come comportarsi. C'erano i due, non ce la stavamo facendo, a togliere l'altro, se li mangi. Figurati, figurati se può essere. Figurati se può essere giusta una cosa del genere. C'è l'elenco, Gianni, lo sai meglio di me, non devo insegnare niente. C'è l'elenco dei cani a rischio. Rottweiler, Pitbull, tutti quei cani, il dog argentino, tutti quei cani devono uscire a guinzaglio con la musarola. Lo dico perché io sino a qualche anno fa appartenevo alla zuffera, poi me ne sono uscito perché non ce la facevo a fare i turni, però è così, ce l'ho ancora l'elenco, quindi bisogna avere solo la voglia a queste persone di farle passare tutte le macchine che vanno in campo, perché non devono essere dei, delle persone privilegiate. Allora io ho della zuffera, gli ho detto che c'è anche un cazzo che ci cava, quando non dire che ci cava le persone, da poco ne ha mandato un all'ospedale, mi ha mandato un amico del padrone. E andata a casa sua, gli sono stata addosso e l'hanno fuscicata. E l'hanno dovuto portare all'ospedale in ambulanza. Che li mangi? Ricordiamo già, sono cani forti e non, poi è questione di si difende o non si difende, ti crepa, sto dicendo, ho visto un pitbull con un pastore tedesco, gli ha aperto il collo in due, non ci ha scherzato, sono dei cani troppo forti, dei cani cazzo che hanno una cosa allucinante, poi non li mantieni, non li mantieni, bisogna stare molto attenti, quello è da abbattere, sai cosa vuol dire da abbattere? È brutto a dirlo, ma è così, una bella denuncia, vanno i vigili urbani e vedi che gli bastano macchina i suoi signori. Più che altro sarebbe da abbattere il padrone. Claudio, mi ho parlato di capo a questo ispettore di polizia che tra l'altro lavorava in ufficio con mio socio, ci conoscevamo amici, e ci aveva, la moglie ci aveva gli occhi sciati, l'ha portato lì vicino di fronte a casa a fare la pipì, e poi ce l'ha preso in braccio e lo stava facendo il portone di casa per entrare, è andato a questo pitbull, gliel'ha preso da mano, gliel'ha portato lontano, gliel'ha portato tutta a piedi, gliel'ha fatto tutta a pettarini. Sempre il cane di questo ragazzo? No, questo qui è un altro, questo è un altro, sempre chiamato nella zona, e gliel'ha fatto tutta a pettarini, il marito stava facendo la pistola a sparare a lui e al cane, però se non riesce mai a tutti qua. È stata la moglie che l'ha fermata, perché se no qui se ne sono andato via da lì, quando è successo questo fatto, hanno venuto la casa e se ne sono andato. Non vado avanti, per carità. Non vado avanti. No, ho visto la foto, Niente di grave. Già passa, però devi stare molto attento, visto che c'è questo inconveniente lì già. Stai molto attento. Attento perché quei cani qua, meglio evitarli. Sto dicendo, meglio evitarli. Lì è successo anche lì a Mario Lattadoce, però se trovava il piccolo, perché Mario c'è anche quello piccolo, c'ha un carlino anche, oltre ai due grandi. Trovava il piccolo se lo mangiava. Il problema è che ha avuto allo Bresaganario. Le è venuto un bel male, in salita è venuto, capito? Perché è andato e gli ha morsicato, perché attaccano da dietro, hai ragione, infatti, gli ha morsicato la coscia. Giuda si è girato, l'ha pigliato Barugabo, che Barugabo tre voci re della cadenaria. Sì, ma io guarda, non voglio dire che dai, non sia quello, però tu non conosci la forza che c'ha, dai. E anche l'agilità che c'è. Ci sarebbe difeso, sta tranquillo, non lo teme. Ci sarebbe difeso perché non teme nessun tipo di cane. Ci gira tanto qua, non ha paura. Il fatto è che lui aveva la moglie di ruola, se no ci sarebbe difeso, prego. Se ne aveva pigliato ma gli aveva tenutata. Già, lascia perdere, ti ho detto. Non avrebbe dato o non gli avrebbe dato. Il pitbull è un cane molto più forte di quello che c'è tu e di quello che c'ho io sicuramente. Si difendono ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Lascia perdere. È meglio evitarli quei cani. È meglio evitarli. Perché basta, se ti aggraffa lo godo non ti molla più, Te lo tiene fermo, ti tiene fermo fino a quando non muori, soffocato. È un cane che è una cosa vergognosa. Vergognosa, veramente. Una razza così. È un bellissimo cane, ma è schifoso. In quel lato lì è proprio una cosa orrenda, guarda. Orrenda. Mi hanno fatto vedere a Striscia la Notizia, quello dei cani. Un cane, e questo pitbull che è uscito dal giardino di una signora, e c'era nell'altro giardino a fianco, però con la rete. Con la rete. C'era un cane, un meticcio era, praticamente per poterlo andare a prendere ha scavato sotto, la cosa brutta è che quel cane poverino si è avvicinato alla rete, l'ha pigliato Baramone e Rogud, l'ha trascinato sotto la rete. È allucinante. Sono cani che dovresti tenere tutti in riguardo, nel senso che devi mettere in un gerola, collare il taglio corto, poi ce l'ha lungo, poi ce l'ha sempre in mano, non piglia abbastanza il taglio, lui ce l'ha la manica della pistolina. Stava parlando solo uno perché gli ha dato un colpo e tutti l'ha girata, dice che non lo doveva picchiare, ci stava incantando. Ed dare la sigla sul colpo di guinzaglio, che ne dici di più? Questo signore gli ha fatto osservazione, per cane non lo vedo tutto chiaro. E ci stavano, avevano fatto questo, no? E ha fatto così, ha detto questo che prima è salito vicino anche del buon pastore per aiutare il ubriaco, con un rotto sbaglio dice che ne l'ha usato, e ci sono parlati e l'ha fatto in sala. Quindi lo trovare è più forte di un piccolo. Cazzo già, se parlo dello tuvaglio però, sicuramente dice aveva avuto un mattino napoletano, o cane che c'ha Mario, o un altro tipo di cane grosso, di stazza grossa, o un come si chiama, un Doberman, cioè sono cani aggressivi, sono cani che è chiaro che lo tuvaglio non è bucciare il gioco, è più grosso di Filippo, di Filippo è grosso, non trova da cugino, lo tuvaglio è ancora più grosso, molto più grosso. Sono cani di stazza, che però anche quelli, a differenza dei nostri, del mio e del tuo, che si possono difendere quanto vuoi perché anche Filippo non teme niente, ok? O quelli hanno un altro tipo di difesa, sono cani che sono abituati a magnati, a disintegrati, capito? Mamma mia, guarda, è brutto dire queste cose, però per carità, comunque ho visto la foto, niente di grave, è andata bene, però stai molto attento già, e va di sempre quando vedi quelle persone con quei cani, perché se trova anche il padrone debole e le scappa per andare a fare male, non scappa per giungare. Già che a volte è successo, te l'ho detto, che ha giunto la banda di PD, perché stava fisciato, stava sul muretto, non l'aveva fatto qui, e stava andando per la gran palla alla cuccia, perché gli ha battuto. Il ragazzo l'ha passato alla ragazza, il cane deve cercare, voleva andare con lui, se ne ha tolto la vetturina, ed è partito contro un taglio. Io come lui stavo in vado, mi subito questo, ho preso gli occhi sulla banda di PD, da parte. Poi lui ha preso, ha fatto il giro della macchina, con pericolo e non si cascia anche a me, ha fatto il giro della macchina e preso lì se ne è accorto, perché allora si stava girando. Il padrone ha chiamato, non è venibile, ti ascolta, fa una cosa, ti ho pirato nel momento che controllo della macchina, non sto dicendo, c'è il controllo in tasca, se si avvicina non si calma il cane e perdi la mano. Sì, perché vedi, ti porta a fare queste cose e poi ti rovini, perché lo sai che certe cose non si possono fare. E ti rovini per colpa di questi deficienti. Bisogna stare molto attenti, cazzo. Mamma mia. Io fortunatamente sono in una zona abbastanza, forse più tranquilla della zona tua, perché qua sono tutti pastori tedeschi, di cane come il mio, vabbè non c'è neanche uno, però ci sono cani piccolini, di persone anziane, di ragazze. Uno solo ce n'è, di Pitbull, che è uno delle case popolari, che mi ha giudito una volta a giorno, prima scendeva verso di noi, capito? E una volta lo stesso con Filippo ci stavano, però ce l'aveva lui a guinzaglio, io a guinzaglio, quindi non è successo niente. Ho detto, stai attento, statene molto dalla tua parte, ok? Perché i cani che ci sono qua sono tutti cani piccolini, a parte il mio, a parte qualche un altro. Quindi startene nella tua zona, ce l'hai il tuo giardino nella tua zona, no? A startene nella tua zona, non ci scendere mai qua. Perché se disgraziatamente il tuo cane dovesse far male a qualche cane del mio condomino, te ne sacco un gabbo, proprio così gli ho detto, non c'è più scelto. Tu lo sai che ti chiede il cane, no? Sì, tranquillo. Sì, allora, quel cane lì era un cane dei tossici, con tutto rispetto per chi ce l'ha. Allora, la maggior parte ce l'hanno i tossici per difendersi, capito? Per difendersi. E quindi sono cani cattivi. Adesso sono per musicare, fanno tirare le camere d'aria, queste cose qua, li prendono quei cordoni cruci per brano dati che loro li tirano, non hanno fatto cose che non all'arma, hanno queste cose qua. E vabbè, comunque, mi ha ringraziato perché non l'ho denunciato e mi ha detto che piano piano si liberirà perché non fa la morale. A me interessa che tu mi intorni su e ti guarisca il cane, perché se il cane ha qualche cosa che cazzo che ti va infezione o roba del genere, mi paghi due. No, te ne conto la greciana, l'avevo detto, hai capito? Attenzione, perché ora se non sia vaccinato quel cane, che non abbia niente, che sia proprio da randaggi, capito? Con tutto rispetto, perché è una bellissima ratta, a me piace molto, ce l'aveva mio collega, ma io quando andavo a prenderlo dentro la macchina saliva, tutto mi faceva le fette, cattivo qui, cattivo bracco si chiamava, cattivo è, in casa non potevi entrare, anche fuori non ti potevi avvicinare al padrone, cattivo. A me quando andavo a prenderlo, sentiva la macchina arrivare, lo mullava Gabriele sopra, quando è stato male era l'unico che poteva entrare a casa sua, mi ha dato le chiavi di casa, è stato molto male, quindi andavo io a portare le medicine, a farle il pranzo eccetera, anche lui adesso è in pensione, e come sentiva la porta aprire, ci metteva dietro la porta, oh mica c'ho io, mi cucù, le facevo cucù, aprivo piano piano, mi guardava e mi faceva entrare, se no col cazzo entravi. Lo so, a me non piace con quel cazzo, c'hanno gli occhi non mi piace, mi danno un senso di rispetto, di cosa, di spirito, di cosa del genere. Già, Tanzo, però ti ripeto, l'educazione è come si dà ai bambini piccoli, si dà anche ai cani, c'è il cane educato, questo non mancava la parola, è morto poverino, è morto, ha avuto una brutta malattia, se non mi ricordo, me l'aveva detto Gabriele, era morto, però un bellissimo cane, grigio, ma bello, lucido, robusto, è maro, ma maro vedrai. A me scendeva, quando entrava al bar, lasciava la macchina aperta con le finestrino che lui non poteva togliere la testa, anche non tappuggiasse la macchina, vedi? Mamma mia, io ci entravo anche dentro, io svoltati che devo guidare, allora ci metteva nell'altro sedile, a me mi obbligava un bel perché l'avevo preso piccolo e io con Gabriele ci ho fatto 20 anni di lavoro assieme, quindi lo portavo anche, perciò non c'era problemi. E vabbè, è andata bene. Infatti l'ha lasciata solo nella cuccia, più che altro l'ha lasciata l'orecchio, l'ha messo a ferro. Gli ha preso l'orecchio e è corto, capito? Sarà che è rato di apertura di mascella che c'ha. Già, hai da paura, cazzo, te lo sto dicendo, non l'ho fatto vedere la stessa notizia, da paura. Si ha messo la bocca, si sa posto l'ugabo, tutta la mora di Rugodo a questo cane, guarda uno strazio, infatti ho cambiato, non ho voluto manco vedere quel servizio, l'ha tirato sotto la rete, poi oscuravo la telecamera per non far vedere quello che stava succedendo, ma si sentiva il cane che era uno strazio, capito? Quindi proprio per far vedere questi cani bisogna stare molto attenti perché sono troppo aggressivi, cattivi, i cani sono, è un maravetto, un pitbull è un maravetto. Poco fa si stava lamentando che si stava tirando il pubblico, non so, stavo lamentando e poi è venuto vicino a me e si cricca. Adesso si è addormentata, sicuramente anche lei che gli ha fatto si è parato come se una pena, ho tenuto io perché ce lo sarebbe dei corpi, l'ho fatto la scenata, poi gli ha fatto un'altra iniezione, sto risvegliando perché abbiamo scelto, e ci me li hanno messi senza farmi l'iniezione, quindi anche lui sto facendo l'iniezione e si muove lo stesso. Vabbè. È andata bene perché glielo poteva anche staccare l'orecchio, se le stacca l'orecchio un cane diventa Giorgio. È che aspetta c'è gli orecchi a interno, c'è la mamma di così, c'è la figlia che c'è la e più il veterinario che si è salvato c'è perché ha l'aspetto un po' grosso, c'è un po' di pelle, no? Quando ti muove non ti arriva, non ti fa il grossa come prende, non l'ha buttata, l'ha schisciata e va, solo l'orecchio che le ha rotto perché praticamente l'ha preso proprio al termine dell'orecchio, quindi l'ha schiattata. Si intrigni e tira per le sacche la lecce, tranquillo per le sacche. Sì, anche Filippo è così, c'è l'orecchio all'interno, no? Con figlia, tutti sono così con la razza lì. E poi il coltello a tosta, perché Filippo ha pigliato un golpe da Gozo, te l'ho detto, dal cane di Mario. Capito? È partito, quello si è girato, prima Edo l'ha fatto un moscio alla coscia, quello che è talmente alto, il Gibbo Bassasò, attaccato e ha dato un morso alla testa, l'ha aperto in testa, capito? Però punti non ce ne volevano, è passato da solo. Infatti se lo tocchi sopra la testa c'è un'ondulazione, no? Come è cresciuta di nuovo, proprio perché sono duri, hanno un bel di pelle, se no la via è faccata un gatto. Grazie a tutti. Quante le bicinette, gas, baccare dai. No, oh, questo è via. Sono volate. Fatta il caravetto in aria ci vuole un bocchetto di assegni, ma stai scherzando. Io nelle ultime due volte che sono andato a un fossil, allora avevo speso 80 più 60 più 40. Poi ci aveva, mi era entrata una spina nella pianta del piede, che me la balzò, poi io me ne ero accorto. E quindi era già dentro questa spina, l'ha dovuto incidere, togliergliela e metterle un punticino. 40 euro. Poi l'ultimo richiamo dell'ultimo vaccino che lo va a fare, 80 euro. Poi 60 euro la visita quando gli ha fatto la visita al sangue, perché aveva una sintoma, un inizio di avvelenamento, capite? Quindi lascia perdere. Quando entra il veterinario è peggio di entrare in farmacia. Emocromo. Esatto, l'ha fatto il telegiama, l'emocromo. 60 euro. Vamos, più le medicine che mi aveva dato. Già. Il cane è bello, ma costa. E vabbè, io sono... Se l'ho preso perché lo volevo tenere, però non è quello. Se ti causano problemi di gatti, ti devo pagare per vedere il cane. Anche perché a me non mi piace fare del male, perché se lo tirano, ma almeno è cresciuto, lo volevo mancare. Io l'ho cresciuto, non ci vede niente. In giro di una quindicina di giorni l'ho ricresciuto. Tutto sopra la testa poi c'è il bianco, adesso non si vede più perché c'è tutto il pelo, però se tu le passi il dito sopra la testa c'è un'ondulazione, capito? Proprio come gli ha tolto la pelle, siccome i punti non ce ne volevano. L'ha disinfettato, gli aveva messo l'aveva rasato appena gli aveva messo un cerottino per tenere, è una di quelle graffettine lì, per capirci, e basta, è cresciuto subito, no, già tranquillo, già cresce. Beh, anche io se l'ho voluto è perché lo posso mantenere, è perché le cure bisogna dargli, però ti ripeto, bisogna stare attenti anche agli altri, Mario addirittura nei due, quelli grandi, il Presa Canario e l'ultimo che ha preso, che sono i cani che ha battuto a Rubitibur, invasi nei Bigliarumoro, lì c'hanno l'assicurazione, ho fatto un'assicurazione con l'Allianz. E lo so, anche non per essere ha fatto le stesse che l'ha fatto. Ma io ce l'avevo l'assicurazione, sì, nel 2018 ce l'avevo. Però l'ho fatto di con la verità, ho fatto le crocchette e praticamente ho visto l'assicurazione per tutto l'anno. Se non morsicavano, se per dire non vestiva qualche macchina e faceva danno, queste cose qua, era tutto fatto di stesso, non si valiva più per niente. Beh, certo che sì, no Mario ce l'ha proprio, c'è la polizza annuale, ogni anno paga la polizza, in caso di cose del cane, fare malattie gravi oppure infortuni, come se morsica qualcuno, se pure riceve loro, ma i cigani, via le docca, signor bestione, via. Mamma mia, io quando vado Mario, invece lui viene, tutto mi controlla, mi annusa, capito? Sono bravi, però io cani così mani non li voglio, perché mi cucino mani? Lascia via, cazzo. Allora, arrivato a casa di Mario l'altro giorno, lui era fuori, dritto, 147, le spalle allo sportello, al finestrino arrivano. C'è da far paura perché non si sa mai come la prendono quando non c'è il padrone, perché è sempre in uscita. I cani sono cani, si possono girare, quando mi dicono ma musica, è sempre un animale, è meglio che non lo tocchi. adesso non lo faccio più toccare a nessuno, basta. No, no, io ce l'ho il guinzaglio, il mio, te l'ho letto l'altro giorno, a volte. Sì, è bello, poi non ti avvicinare, bello, sì, ti piace, bello, stai lontano però. Perché è sempre un cane, come hai detto tu, cioè non è detto che a tutti, lui se ne accorge, quelli che non conosce non manco li cerca, quindi perché tu devi cercare? Quelli che conosce, anche stamattina, ho fatto uscendo io dal portone arrivando il mio vicino di casa, e manco dalla macchina ne va a fascelle, lo mollo direttamente nel piazzale, lui va e si sta dentro la macchina, tutto se lo lecca, tutto se lo, hai capito? Lui lo sa, chi conosce, chi non conosce, chi deve fare coccole, chi deve dare confidenza. E come mentre un cristiano, no? Ci sono quelli che non ti danno confidenza, buongiorno e buonasera. Lui siccome non può salutare, però confidenza non te la dà, perché te la devi prendere allora? Ma c'è adesso che qua c'è la dirigente a Busciana, l'altro giorno non c'era nessuno. E adesso li tocco un po' la voce del uomo. Facciamo mangiare l'erba perché la usano per usarsi, no? E infatti ci ha mangiato un po' di erba e poi gli ho rimesso la mangiare l'erba e mi pare che l'ho toccata da sotto. No, no, c'era una mangiare, ho rimesso la mangiare l'uova e c'era questo tipo che praticamente mi è passato, ma io sono restato dietro, poi di colpo si ferma e va a carezzato e tu, oh, ti ho fatto il mangio, ma come vuoi la mangiare l'uova? No, no, no. Così, ho detto, io non devo accarezzare più nessuno. Quando io lavoravo, mia moglie ha avuto un paio di problemi che fortunatamente si sono risolti a livello amichevole, se no erano casini. Uscendo nella stradina, qua dal giardino mio sempre, da Cancelletti che sono interni che vanno nella stradina, c'era un signore, come intecido la stradina, boom, mi è brincato in lato, l'ha aperto tutto il giubbotto, capito? Ha rotto il giubbotto. Ad un'altra signora lo stesso, un'altra signora l'ha muscicata la coscia, e quindi perché lei forza non ne aveva a mantenerlo, quindi il cane la tirava, capito? L'ha tirata proprio per andare a morsicare, chissà per cosa, non lo so. Com'è? L'ha fatto una volta, non si è permesso più, tanto adesso gli ho cambiato il guinzaglio corto a catena, con la pettorina nuova, e quindi i guinzagli io lo tengo corto, quello lui sta al passo mio adesso. Mollare non lo mollo solo dentro il giardino recintato, e si entra uno a uno, anche lì viene da uno, posso entrare col cane? No, non vedi, c'è il mio. Quando esce il mio, entri. Aspettate, quando sono uscito, che mi ha messo il guinzaglio, ma sono andato e è entrato lui. Una volta al papà, sai, stava giocando, non c'era nessuno, non c'era manco un cane, e tanto mi ha approfittato, ho comando, che sono amico mio, e mi ha approfittato con la pallina, ha fatto giocare, facciamo la pallina, l'ha presa, l'ha rifatto di tutto tipo, era anche sui orari, ormai c'è niente più, fa una buona storia, non lasciamo aperto, quindi ci tengo a studiare. E fatto sta che questo qui è arrivato, mi sta mangiando col cane, però non aspetti masco, sì, non li lasci giocare che non si fanno nulla, sono tranquilli, no, dici, non va, ah, guarda, non lo vedo io, non muoci, però non ma era un servo, ma fatto sempre se fa, gran fallo fa, ma la maneccia deve un rosso, era per lui, poi, quando ho fatto la prete, lo stava andando sotto la sai, perché quella è andata a Baiano, sai, oh, perché fanno così, i cani sono così e basta, c'entra, no, il Filippo gioca con quello di il professor Sciacca, ma è un poker femmina, ce ne sono due, uno marrone e uno nero, con quelli gioca, non sono femmine, è dei biasi, capito? Ogni tanto si fa anche qualche segozzo, ma con i maschi no, mi fido, infatti cos'è il maschio? Sì, se è dall'altra parte allora vado, arrivederci, non faccio mai avvicinare. Con le femmine ho tenuto sempre il guinzaglio anche, sì, può scappare, così, ma a livello non si gira, con le femmine sì, ma con i maschi, cani maschi e maschi io non sono mai andati d'accordo, non c'è da fare. E poi se c'è un'altra fine nel mezzo, se c'è una carica con due maschi, lui che perco con le difese gioca, le fa giocare pure l'uomo, le fa giocare, poi cerca di saltarsi. Sì, può fargli uscire, poi quando lo fanno avvicinare, no? Perché a volte lo fanno avvicinare, si gira, no? Così, ehi, lo grande, sempre. Allora, Edo, perché si vede sconfitto, si fa un segotto, capito? E allora, poi trova quelle che sono scolpite, che lo abbaiano, non lo voglio, quelle pizzelle. Sì, ce n'è una vecchia, garderobe, poverina, di una signora che è in pensione, una maestra di scuola. Ma prima quando la vedeva si avvicinava, adesso manco si avvicina più perché si è accorto che chi c'è proprio una dardona, ma cosa me ne vuoi, questa non me ne darà mai. Solo se ne accorgo, per carità. Adesso avessi detto perché adesso non avessi detto non abbia più, e così glielo do alle 8, glielo do tutto di domani mattina, glielo do alle 8 di nuovo, qui alle 8 di sera. Devo fare così per una settimana, nel principio di là. Sì, 6 giorni, come ha fatto a me per non ha preso quel inizio, 7-5 sono già. Chiaro ci sta, sta roba. E allora devo andare là. E preparo il vado. Tanto di freddo anche il cane, così c'è una gara, perché poco fa non si vedeva manco il tipo da lì. Stava sempre lamentata. Poi alla fine si è addormentata. Era tutto sotto le fette ancora delle. C'era vestito. E vai e prendi la medicina, vai, tanto io mi sono anche nascosto, guardo uno straccio di partita, se tra qualcuno rispondo, se no ciccio, vai. Allora ti sentiamo dopo già, ok? Sì, ehi, vai tranquillo, già sono nascosto, via dopo. Mica c'è Giuseppe, Claudio, che ti sta chiamando. Chi? Giuseppe di Alghero. Ma tu lo senti? No, non lo sento io. Cosa hai detto? Cosa ha detto già, boh? Mi ascolti, ti ha detto. Io lo sento bene. Basso, arriva qua. Boh. Santiago dov'è qua? Giuseppe. Arrivava, che era una schiappettata prima. Non ho capito cosa cacchio ha combinato. Giuseppe, io non ti sento, Santiago 1 in mezzo al QRM, sì, da parte mia. Santiago 9 arrivavi, non ho capito cosa è successo lì, se mi senti io non ti sento. Io ma non capisco cosa sta dicendo. Sette. Marco Stre, che bello. Sono arrivato adesso, mi sono sceso il salizzo. Il medico è in via Lomberto, va a salire, no? Via del Trento, gira a sinistra, sali ed è ad angolo con via, non so che via sia quella. E sono tornato, ho pigliato le medicine, è già tornato. Anzi, ho fatto in fretta perché io non ho chiuso all'istante quando vi ho detto chiudevo, mi stavo ancora raffreddando dall'uscita di prima, no? Mi sono alleggerito, mi sono tolto la maglietta di sotto perché sennò sudo troppo a piedi. Invece, bello, sono andato bello tranquillo, liscio, non sudato. Poi, che te devo dire? Quando succedono queste cose rompono le palle comunque, perché poi i personaggi del genere fanno il comodo che vogliono, no? C'è passata gente, ci sono passati cani, purtroppo poi tutti fanno il ragionamento che è meglio evitare, conoscendo l'elemento, no? Vabbè, dai, l'importante è che sia bene il cane, che si rimargini tutto. E adesso si è ripreso, si è addormentato molto, si è lamentata tanto. E poi lo sai che davvero certe volte avere la museruola al proprio cane che magari tiene al guinzaglio è controproducente, perché se viene aggredito non si può nemmeno difendere. Ecco, se no come detto tu ad Omacco qualche morso se lo sarebbe beccato un altro pitbull, però poi il rischio magari che sarebbe incattivito di più, e lì purtroppo con quelle bestie gli devi aprire la mascella col piede di porco, brutte bestie sono. E poi sai cos'è, anche tutti gli organi preposti quando devono fare grandi, cavolate di multe, di mondezza, subito quando devono trattare con cani e padroni pericolosi si cagano in mano, mi detto tra noi. Sì, questi una volta l'hanno avvisato, come si chiama, quasi giù, come dice Clara. E la ragazza che devo chiamare i carabinieri perché con la zona non ci andava, non ci ha fatto da cena. Sì, e poi manco a dirlo apposta ho azzeccato che era il famoso personaggio di quella zona lì, no, quando avevamo fatto il giro largo. Cesso. Purtroppo molti dicono no, il cane è buono, dipende che non lo allevi, ma è chiaro che poi i billoi, anche quello dei giardini, no, che l'ha aizzato contro i passanti, no, per gusto. E giustamente i billoi il cane lo fanno incattivire proprio perché lo usano come un'arma, per difesa ma non solo, anche per offesa. Comunque se uno, per esempio, se un padrone va a attaccare, ad aiutare il proprio cane e poi questo cane cattivo dovesse aggiannare te, e che ne so, magari in parti delicate, cioè se tu ritieni che la tua vita sia in pericolo e c'è un coltello in tasca, gli apri la gola, mi dispiace. Se hai capito, no? Se ritieni che la tua vita sia in pericolo, poi il coltello, vabbè, lì ci affronto come devo affrontare, però lui affronta, non so, sono trafelato, non mi sono spiegato bene, ma il senso è quello. Mi dispiace, ma se dovesse tipo attaccare alla gola, io lo sai, no, come può finire con quei cani. Mi dispiace, ma se c'è un coltello gli apro la pancia. E poi si vedrà. Per meglio un brutto processo che un bel funerale, come si suol dire. Ma lì ci ho avuto un palazzo che hanno tutti. Da poco questo qua è andato la vita a provare, mi sono tentato sulla morsicata, l'ambulanza all'ospedale. Noi, per carità, ma già dalla prima, cioè dal primo danno che fa il cane, se l'indole è quella, il cane va o sanzionato il padrone o gli mette la museruola, non lo so come. Poi ti ho detto, qua stanno a fare le multe quando fai la differenziata male, però quando si tratta di barcamenarsi con... capito? Vabbè, purtroppo questa è la situazione. Pensa che non ho pranzato ancora, cioè io adesso alle 8 di sera devo pranzare e quindi di conseguenza stanotte non ceno perché è troppo tardi. E sai cos'è, sono uscito già il pomeriggio, sono andato da Lidl, sono andato da MB, ho preso il giornale a mamma, ne divenne una, e quindi mi sono riposato un po' e di nuovo uscire. E vabbè. Adesso devo dare la notizia. Ma poi il bello che è mamma, no? Aspetta a me per mangiare, cioè se io trovo gente fuori, che non so, anziché alle 8 torna alle 9, alle 10, lì aspetta a me. Tranne che proprio non abbia una fame da lupi. Ti ho detto, guarda, mangia se devi mangiare, prima che uscissi. No, aspetto te, ma non so il perché. Tanto poi mangiamo in camere separate, quindi cosa... perché devi aspettare me? Vabbè, comunque come giornata è stata costruttiva, dai. Mi sono dovuto doppare con la Red Bull o simili, no? Quelle che sono piene di caffeina, taurina, vitamine. No, certe giornate sono proprio tribule, sono stato il giorno tagliato, proprio una giugana. Oggi la gana me la sono fatta venire perché avevo medicina retroattiva da ritirare, eppure eravamo senza vari generi alimentari e quindi da. Marco, ma ora ci sono tutti che vado a tagliare la pasta, che ne devo dare metà, e adesso ce la devo mangiare un po'. Almeno mi viene bene alle 8 di sera, fino a quando, fino a 5 giorni così. Già, allora facciamo così, siccome tanto mamma sta aspettando che glielo porti un attimino. Dai, ci sentiamo casomai domani e ci sentiamo. Poi quel farmaco ancora non mi hanno chiamato, quindi come sempre devo aspettare. Dai, ci sentiamo domani già, dai, così mi rilascio e tutto. Ciao, già, ciao. Ma guarda che ora mi arriva dalla mattina alla sera, mi dovresti andare in tua a vedere se c'è. Ma sai, non è che posso andare ogni giorno al Palazzo Rosa. Poi loro questo mi hanno detto, hanno preso il nome, dice appena arriva la chiamiamo. Però poi sai, la mano destra non sa quello che fa, la sinistra c'è un'altra dottoressa, non sa che c'hanno il numero, sono dei pasticcioni sono. Vabbè, dai, poi già ne riparliamo, ok, dai, buona serata già, chiudo. Sì, ciao. Ma potevano darmi un loro recapito, perché tanto magari è già arrivata da due giorni, ma loro il numero chissà dove lo mettono, poi se no io avrei detto andate, guarda, me ne vuoi voglia dire, ascolta, andate a fanculo, me lo pago di tasca, per una fialetta, capirai. A me mi arrivano in farmacia le pastiglie, le mandano da lì stesso, le mando da lì se ce l'hanno passa, se sono da casa, però mi arriva dalla mattina alla sera. Seia, questa è somatotropina, credo una cosa un po' delicata, e tutto loro lo sanno. Accetta l'inchiappettata che ci arriva fra poco, che il reddito di cittadinanza che daranno a mezza Italia lo faranno pagare a chi paga le tasse. O come sicuro, ci sarà un aumento dell'IVA, chissà di cos'altro, per carità, lasciamo perdere. Io già non ne voglio, da questo Stato non voglio niente io. Da questo Stato di merda, non voglio niente. No, ma non è pure, io ho lavoro in rete. Se ti dà il lavoro pure, c'è anche il lavoro, scusa. Perché loro ci lasciano tutto trovare lavoro e tutti devono lavorare, quello che a te non ti piace. Ma poi a seconda che lavoro hai, fisicamente non ce la faccio assolutamente. No, ma poi non credo di aver diritto, contando certe cose, eccetera. Se l'ho studiata bene, come dice Claudio. Cos'è essere umano? Vabbè già, dai, che chiudo, dai. Ciao. C'è qualcuno?